Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Prosegue il nostro percorso all'interno del mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallin in studio, dai didaci in regia, un percorso che adesso piano piano ci porterà a salire di grado, anche se oggi toccheremo varie esperienze. Lo facciamo con due ospiti, Maria Luisa Furlan, che è presidente provinciale dell'UCIM, e Maria Grazia Cuzzol, che è dell'UCIM socia, ma è in questo caso direttrice della scuola dell'infanzia di Casale sul Sile. Benvenute ad entrambe. Grazie. Grazie. Maria Luisa, cominciamo segnalando, e partiamo proprio da qui per il nostro approfondimento, con un appuntamento che sarà il 6 di novembre. Di cosa si tratta? Sì, si tratta del convegno provinciale promosso dall'UCIM, ma anche con la collaborazione dell'AGE, l'Associazione Genitori, su Insieme a Scuola, quindi la collaborazione tra scuola e famiglia nell'educazione. Si tratterà quindi di portare delle riflessioni, ma soprattutto anche delle esperienze in atto. Perché tutto ciò è previsto non solo dal buon senso, certo, ma anche dalla normativa, no? Beh, in qualche modo, diciamo che con la recezione delle indicazioni europee in ordine all'acquisizione di competenze di cittadinanza da parte degli studenti, soprattutto nella scuola dell'obbligo, per cui l'idea è che possano diventare capaci di acquisire delle competenze che le accompagnino per tutta la loro vita e anche in contesti che non sono sempre prevedibili finché sono così giovani, e quindi possono adattarsi anche a cambiamenti che possono essere sociali, economici e così via. Tra queste competenze di cittadinanza c'è anche un'acquisizione di competenze sociali e civiche per le quali la collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale, perché non è possibile, non è pensabile che si impari a stare al mondo solo a casa o solo a scuola o nei due ambiti, l'uno a prescindere dall'altro. Questa competenza insieme ad altre che sono quelle più logiche, insomma, per la scuola, quindi saper, sì, come si diceva una volta, saper leggere e far di conto, ma non c'è solo quello. Sì, certo, quando uno le vede dice, ma insomma, queste sono cose scontate, che per essere dei cittadini europei sia importante, venga considerato importante avere delle competenze appunto nella lingua madre, una competenza nella matematica, una competenza in una lingua straniera, oppure nell'utilizzo di un computer. Ce ne sono altre che sono più complesse, per esempio imparare ad imparare, che vuol dire anche avere una forma mentis che consente di continuare ad aggiornarsi. Questo è molto importante soprattutto oggi per poter accedere un giorno al mondo del lavoro, e poi anche uno spirito di iniziativa e una consapevolezza della espressione culturale del proprio paese. Queste sono un po' le competenze chiave. Per molte di esse di per sé non è detto, per nessuna di queste credo la scuola va avanti separatamente dalla famiglia, perché appunto competenza vuol dire non solo conoscere qualcosa ma saperlo anche usare. Uno lo usa nei contesti della vita. Certo, varie gambe che fanno muovere questo corpo. Con Maria Grazia Cuzzol invece vediamo di capire un'esperienza che è, sì, già concreta, giusto, nella scuola per l'infanzia. Sì, mi riallaccio un attimino a quello che diceva Maria Luisa. Per quanto riguarda la normativa, noi non abbiamo nessuna normativa, sto parlando di scuola dell'infanzia, quindi la fascia di età dei 3 ai 6 anni non esiste nessuna normativa, nessuno ci obbliga, però c'è un'esigenza molto forte e quindi la differenza è sostanziale, ecco, riguardo a questo. Tant'è vero che questa esperienza nostra è un'esperienza che è stata voluta, non imposta, ma voluta sia dagli insegnanti che dalla famiglia. Quindi già siamo partiti con un piede giusto, diciamo, ecco, un piede quasi di collaborazione diretta. Certamente quando poi si lavora sul campo, si richiedono determinate diciamo competenze, ma non solo quelle, ma determinati interventi da parte della famiglia, da parte della scuola, lì chiaramente c'è il confronto, un confronto positivo, un confronto valido, un confronto che deve esistere, comunque c'è. Ecco, l'esperienza della scuola dell'infanzia, ecco, parlo della scuola dell'infanzia che io dirigo, che è quella di Casale sul Sile, ma non è solo questa. E noi abbiamo così organizzativamente un coordinamento a cui fanno parte 13 scuole con un numero di insegnanti che sono circa una quarantina, e positivo anche questo è stato che tutte queste 40 insegnanti e tutte le scuole hanno lavorato con un intervento mirato all'argomento. Come ha detto prima Maria Luisa, è fondamentale la collaborazione fra la scuola e la famiglia, e soprattutto che scuola e famiglia si capiscano sulle linee educative, perché se uno va da una parte e uno va dall'altra, chiaramente ci rimette il ragazzo, perché è già disorientato. Già ci sono problemi tra mamma e papà, che a volte uno dice una cosa e uno l'altra. Il ragazzo resta ancora più disorientato. E ecco, noi abbiamo lavorato in particolare sull'aspetto della regola vera e propria. Sembrano cose già scontate, le regole per esempio che chiediamo ai bambini, di rispettare, di ringraziare anche quando viene dato qualcosa, che non è tutto scontato, che non arriva tutto dall'alto, ma c'è un percorso prima di avere il cibo, per esempio. Uh-huh. Ecco. E abbiamo cercato, ci siamo rivolti ai genitori e abbiamo spiegato loro il perché vengono chieste determinati atteggiamenti. Ad esempio, il fatto di assaggiare quello che ti viene proposto e non rifiutarlo, non mi piace, e così via. Questo serve anche per imparare a valorizzare anche quello che si ha. E anche, tra l'altro, la persona che l'ha fatto, il dire grazie è già importante, perché c'è un rapporto di rispetto nei confronti di quelle persone che hanno cucinato, la cuoca, mi viene in mente la cuoca, mi viene in mente altre persone che ci aiutano a crescere anche negli aspetti fisiologici, fisici. Certo. Allora, ci fermiamo, queste sono, adesso toccheremo altri esempi concreti di collaborazione. Breve pausa e poi torniamo insieme. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare su facce vulnerabili e indifese, sono nuvole sospese, gonfie di sottointesi che accendono negli occhi infinite attese. Sono gocce preziose, indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate. Sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare. Sono lampi dentro a un pozzo, cupo abbandonato, un viso sordo e muto che l'amore illuminato. Sono foglie cadute, promesse dovute, che il tempo ti perdoni per averle pronunciate. Sono note stonate, su un foglio capitate, per sbaglio tracciate, poi dimenticate. Le parole che ho detto oppure ho creduto di dire, lo ammetto, strette tra i denti, passate. Parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare, sono giocattoli e zanzare, sabbia da ammucchiare, piccoli divieti a cui disobbedire. Sono andate a dormire, sorprese da un dolore profondo che non mi riesce di spiegare, fanno come gli pare, si perdono al buio per poi ritornare. Sono notti interminate, scoppi di risate, facce sovraesposte per il troppo sole. Sono queste le parole, dolci o rancorose, piene di rispetto oppure indecorose. Sono mio padre e mia madre, un bacio a testa prima del sonno, un altro prima di partire. Le parole che ho detto, chissà quante ancora devono venire. Tra i denti risparmiano i presenti, immagini. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Seconda parte di questa puntata dal mondo della scuola, insieme a scuola stiamo parlando di collaborazione tra scuola e famiglia nell'educazione, perché se ne parlerà in un incontro promosso dall'UCIM martedì 6 novembre in programma nel pomeriggio alle 17.30 a Casa Toniolo di Treviso, con la direttrice della scuola dell'infanzia di Casale sul Sile, Maria Grazia Cuzziolo. Stiamo facendo proprio esempi concreti di questo vademecum che proponete ai genitori, ai bambini. Vademecum che nasce insieme, ecco, cioè come è pensato. Esatto, è importante perché questo vademecum nasce proprio da un'esigenza, quindi nascendo dall'esigenza chiaramente viene costruito insieme e viene verificato insieme. Questo è uno degli aspetti positivi di vademecum, di regole ce ne sono tante, ma se le lasciamo nel cassetto chiaramente non hanno ricaduta. Faccio un esempio, ecco, la fascia di età, l'ho detto prima, sono bambini dai 3 ai 6 anni, quindi magari abituati in casa a non dire mai grazie perché tutto è scontato. Ecco, il dire grazie a loro pesa effettivamente, però se lo si ripete, ma non lo si ripete a scuola, ma anche alla famiglia, ecco perché c'è questo, diciamo, queste regolucce, questi atteggiamenti vengono anche richiesti dai genitori e motivati ai genitori. Il momento in cui il genitore consolida quello che è stato l'atteggiamento che l'insegnante ha richiesto al bambino a scuola, è chiaro che questo bambino, oltre a convincersi, lo fa anche per abitudine. Mi viene in mente quando si condividono i giochi. Ecco, il gioco, si sa che in questa fascia di età il bambino è egocentrico, per cui tutto per sé. Ecco, il condividere i giochi, forse chi non ricorda più quella fascia, è una cosa, sembra una cosa scontata, invece è la cosa difficilissima. Perché? Perché il gioco è mio, perché a casa mia io ho l'orsetto, ho il trenino, ho il coso, i giochi che sono miei e non me li tocca nessuno. Invece il condividere e il lasciare che altri bambini giochino, lavorino con quello che a te magari piace tantissimo, è una cosa importante ma anche difficile per loro, ed è un sacrificio. D'altronde io dico sempre che il sacrificio aiuta a crescere, come il pianto aiuta a crescere. I bambini piangono, anche il pianto è la fatica. Ecco, e ecco un altro aspetto, per esempio, su cui abbiamo insistito, sono gli atteggiamenti relazionali corretti, il saluto ai coetanei, ma agli adulti, ai genitori prima di andare, che vanno a lavorare, quindi guai a quei genitori che fuggono, vanno, lo lasciano lì visto che non piange. Appunto, le regole non sono solo per i bambini. Non sono per i bambini, tant'è vero che, come vi ho detto prima, è proprio nato insieme ai genitori, no? Il genitore che lascia il bambino, o se lo saluto piange, non importa, anche se piange, però il bambino sa che il genitore va al lavoro. C'è qualche genitore che ha ringraziato per l'introduzione di questo vademecum? Sì. Anzi, ecco, una delle prerogative è quello che, visto che la scuola ha un certo numero di bambini, sono 220 circa, e quindi altrettanti genitori, è verificabile. Noi due volte all'anno verifichiamo proprio se c'è una ricaduta e soprattutto se il genitore, quale fatica fa il genitore nel mettere in atto queste regole, e aiutiamo la famiglia così ad espletarle, a continuare. Però si sa che l'educazione è difficile, collaborazione ancora di più, e ci vuole tempo. Voi da quant'è che l'avete introdotto questo? Sono 2 anni, quindi non moltissimo, non abbiamo una statistica così, però continueremo certamente, perché vediamo che c'è un risultato. Poi nell'educazione chiaramente i risultati non si vedono, non è subito. Che si vedono subito, bravissimo, non si vedono subito, si vedranno, e addirittura io dico sempre che si vedranno quando questi genitori questi bambini magari diventano genitori. Certo, e allora si vede, si ricorderanno di questo. Esatto. Questa, Maria Luisa, è una esperienza che poi sarà presentata più diffusamente appunto nell'ambito di questo incontro, che è la prima appunto per la scuola dell'infanzia, ma poi ce ne sono anche altre per i livelli superiori. Sì, l'idea è quella che la collaborazione tra scuola e famiglia, che è più scontata forse quando i bambini sono piccoli, in realtà accompagna tutte le fasi della vita scolastica con modalità diverse, per cui per esempio per la scuola media di primo grado, la scuola secondaria di primo grado, ci sarà l'esperienza del progetto QWERTY, che gli ascoltatori probabilmente già conosceranno. Ne abbiamo parlato molte volte. Infatti, sì. Un social network per i ragazzi dell'età della scuola media, ecco, per aiutarli ad affrontare la rete e con consapevolezza in ambienti protetti o comunque consapevoli anche dei comportamenti da assumere e di quello che possono trovare, di quello che è bene che visitino, che vedano, e quello che non è bene fare. E che dia anche a loro modo, come ci spiegava il professor Afro Groppo, di incontrarsi poi fra di loro anche al di là della rete del computer, ma di incontrarsi proprio fisicamente anche, che poi è la cosa più importante. Certo, perché tutti gli strumenti sono belli e interessanti, a partire anche dai social network, se vengono utilizzati nella maniera corretta. E allora, tra poco, dopo l'ultima pausa, saliamo ancora di livello e andiamo in un liceo. Dal mondo della scuola. Walk blindly to the light and reach out for his hand. Don't ask any questions and don't try to understand. Open up your mind and then open up your heart. And you see that you and me are love. Ultima parte di questa puntata, la quarta della stagione con il mondo della scuola. Stiamo parlando della collaborazione tra la scuola e la famiglia nell'educazione. Il 6 di novembre c'è un appuntamento promosso dall'UCIM che presenterà alcune esperienze. Abbiamo già parlato del Vademecum nelle scuole dell'infanzia, citato il progetto QWERTY. Arriviamo allora, Maria Luisa, all'esperienza al Liceo Da Vinci. Sì, al Liceo Da Vinci il Comitato Genitori è particolarmente attivo già da vari anni e ha sempre cercato di porsi in relazione anche con i docenti e negli ultimi anni anche con i rappresentanti degli studenti. Quindi in questo senso è stato promotore di iniziative che poi sono state realizzate e generalmente vengono anche accolte con favore sia dal punto di vista di eventuali approfondimenti di tematiche educative oppure, appunto, dicevo prima, in ordine alla acquisizione di competenze sociali e civiche, possono essere anche dei temi che riguardano il mondo di oggi, per esempio, sia anche proprio temi che si possono collegare con i percorsi curricolari dei ragazzi. È ovvio, lo dicevi prima, no? Che nella scuola dell'infanzia ci sia una maggiore, per natura delle cose, una maggiore attenzione e presenza anche dei genitori. Con degli adolescenti, ormai anche maggiorenni e lettori, com'è il rapporto? Beh, io non conosco, anzi sono curiosa, aspetto il convegno per sapere anche come fanno questi rappresentanti dei genitori a relazionarsi con i rappresentanti degli studenti perché le proposte che fanno poi passano. Allora, o indovinano i temi, ed è vero perché spesso sono temi che riguardano delle situazioni che sono sentite da tutti e in particolare anche dai ragazzi. Mi viene in mente un paio di anni fa sull'emergenza degli sbarchi a Lampedusa, poco più di un anno fa, e hanno chiamato Laura Boldrini, che è un ufficiale delle Nazioni Unite che appunto coordinava le operazioni di accoglienza dei profughi finché il sistema è andato in tilt proprio perché gli sbarchi sono stati troppi, ma anche più recentemente temi che riguardano per esempio la crescita o la decrescita, la Touche, oppure più recentemente Edgar Serrano poche settimane fa è venuto a parlare del land grabbing, del fenomeno di accaparramento di grandi territori di stati sottosviluppati da parte di paesi in via di sviluppo oppure del mondo sviluppato per fare agricoltura intensiva oppure per sfruttare le materie prime, e che però poi portano ben poche ricchezze al paese che affitta questi terreni. In realtà porterà spesso a delle zone quasi del tutto invivibili e poco fertili, ecco. Quindi questi temi vengono trattati e naturalmente si inseriscono facilmente anche in quelli che sono dei percorsi curricolari che possono riguardare la storia piuttosto che l'approccio al mondo contemporaneo. E ovviamente i temi più adatti anche a persone più adulte come sono gli studenti di un liceo, no? Sì, e inoltre per esempio a volte questi si accompagnano a degli incontri che possono essere serali per genitori, magari con lo stesso relatore di fama, oppure vengono fatti appunto il sabato mattina in cui i genitori che sono disponibili possono partecipare comunque, e quindi questo vuol dire anche una scuola che diventa un po' una comunità in cui ci sono docenti, quelli che non sono in orario di servizio oppure quelli che eventualmente chiedono di poter partecipare, possono essere sostituiti perché non è così facile adesso, no? Con le restrizioni finanziarie, studenti e genitori che insieme riflettono, condividono degli approfondimenti. Questo diventa interessante con dei ragazzi appunto che si avvicinano alla maggiore età e quindi stanno diventando dei cittadini adulti. Torno a Maria Grazia per la scuola dell'infanzia, anche per la sua esperienza professionale. Visto che avete pensato questo vademecum, vuol dire che evidentemente c'era bisogno, perché forse si è notato uno scollamento appunto sul tema dell'educazione dei bambini. Nel tempo, negli anni, quali sono stati i fattori che hanno fatto cadere insomma questo senso comune dell'educazione? Cioè, perché si è andati ognuno per conto suo? Ma credo... No, forse l'esigenza si sente senza dubbio, ma il genitore sempre di più si sente isolato, e anche perché viviamo in una società abbastanza isolata, no? Chiusa la porta di casa, il genitore, il figlio, massimo due, di solito uno, ecco, e quindi l'esigenza poi di ritrovarsi insieme, di condividere insieme le problematiche, ma non solo le problematiche, ma anche vedere che le tue problematiche sono uguali a quelle di altri genitori, e cercare di trovare insieme una soluzione. Ecco, questo è stato un po' la scintilla che ci ha fatto così lavorare per cercare maggiormente questa collaborazione con la famiglia. E dico che, ecco, anche se chiaramente non tutti, o per motivi così a livello individuale, di tempi e così via, però ho visto che man mano il genitore, appena trova la difficoltà, sente l'esigenza, però purtroppo deve trovare la difficoltà, deve trovare lo scoglio, deve trovare la motivazione forte sulle sue spalle. Dico, di solito non si attrezza prima, uh-huh. Ecco, e invece noi vorremmo, credo che un po' tutti vorremmo, che prima che diventi emergenza diventi veramente una collaborazione. Purtroppo dobbiamo arrivare all'emergenza per... E lo stesso motivo è stato quello che ha portato i genitori del Da Vinci o i rappresentanti dei genitori a farsi promotori, prima ancora che di queste iniziative e di altre, di riflessione sull'educazione anche con i docenti, proprio perché si sono resi conto che in un'età in cui il gruppo dei pari diventa più importante forse anche di quello che dice la famiglia, ecco che se c'è un gruppo di pari in cui alcune questioni vengono condivise, in cui le famiglie condividono anche per esempio alcune regole, fino a che ora stare fuori la sera piuttosto che si può usare il motorino sì no o altre cose del genere, quanto tempo stai su internet e così via, questo può poi essere più, rendere più semplice anche una vita di famiglia, un'educazione in generale. E più in generale, insomma, la vita soprattutto a beneficio dei ragazzi e dei bambini, degli studenti. Allora, 6 novembre, ore 17:30 a Casa Toniolo, insieme a scuola, collaborazione tra scuola e famiglia nell'educazione. Grazie a Maria Luisa Furlan, a Maria Grazia Cuzzol, buon anno ancora scolastico. Grazie. E buon grazie, lavoro. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.